música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ebbene, questa mattina io ho perso completamente l'ascolto in cuffia, però in questo momento sto iniziando molto faticosamente a selezionare dalla nostra bibliotechina quelli che sono i libri infami. Sì, perché oggi è il venerdì dei libri infami. Oggi avremo la possibilità, il privilegio, il grande piacere di gratificare gli ascoltatori o le ascoltatrici che daranno un succoso e importante contributo a questa trasmissione con un imperdibile libro da noi selezionato, di cui ci disfiamo veramente con dolore, come ci strappassimo un figlio dalle braccia, come se ci amputassimo un arto indispensabile, come qualcosa di vitale in noi stessi dovesse liberarsi. Beh, vi daremo uno dei libri a cui più teniamo. Essendo l'occasione della Pasqua un'ottima occasione per leggere, non perdete questa meravigliosa opportunità. Salve, sono Letizia, ho 40 anni e appartengo alla categoria di donne single e separate. Vorrei parlare della difficoltà che ha una donna single, una donna in generale, ma single e separata, nel rapporto con altre donne. Devo precisare che ho fatto una scelta, e cioè quella di non frequentare le donne separate come me, o almeno non frequentarle fuori dal contesto che è la scuola o i figli, mamme di figli che frequentano i miei, separate anche loro, ma ho deciso di frequentare donne sposate, ancora con famiglia, perché sono un tipo calmo, piuttosto tranquillo, una persona che ama molto rilassarsi dopo il lavoro, dopo essersi occupata dei figli, per cui ho scelto le donne ancora sposate, quelle che non escono per la discoteca, quelle che non si trovano al bar per il caffè spettacolare, ma quelle che si frequentano con calma. E una nostra ascoltatrice che ci lascia, come è diventato pure consuetudine, una sua testimonianza di vita, il racconto di un rovello della sua esistenza, che da caso personale può diventare spunto per un allargamento di tipo universale. E Letizia è una donna separata, una condizione che accomuna un'infinità di altre donne, probabilmente ci stanno ascoltando in questo momento, ma ha fatto una scelta radicale, di non frequentare persone omogenee alla sua scelta di vita, al suo modello quotidiano di condurre l'esistenza, di provvedere a una famiglia, dei figli, quindi è una single con strascico, chiamiamola così. Non vuole frequentare donne come lei. Ancora non l'ha detto, poi sarà una lunga testimonianza la sua sulla quale poi noi cercheremo di indurre la vostra partecipazione e la vostra integrazione. Lei ha una sorta di quasi repulsione per le persone che appartengono alla sua categoria, o perlomeno che vivono lo status di donna sola, quindi libera, quindi con una gamma infinita di possibilità di mettersi in gioco, perché si sente limitata da questo tipo di donne. Lei fa delle scelte che possono sembrare all'inizio anche scelte di rimessa, scelte di messe, scelte necessariamente innestate su un principio di mestizia. Dice: sono una persona tranquilla, non frequento quelle donne che vanno al bar, bevono e vanno in discoteca per chiacchierare, come se ci fosse qualcosa di male, qualcosa di riprovevole. Cos'è che ha fatto a Letizia, il genere femminile liberato, sciolto dai vincoli matrimoniali, perché debba ragionare così? Ho avuto delle brutte esperienze. Quando ero sposata, le mie amiche sono sempre entrate in competizione con me e qualcuna è riuscita a portarsi a letto anche il mio ex marito. E ora lo stesso, ho sempre delle difficoltà. Difficoltà che subentrano dopo un po', dopo che frequento la casa, magari perché il marito quasi sempre fa delle avance, oppure fa lo stupido, oppure perché la donna si misura. Ecco, il motivo principale per cui è difficile, perché si entra sempre in competizione, ci si misura sempre, siamo sempre alla ricerca di conferme, per cui avere un'amica vuol dire misurarci, sì, sul lavoro, su un paio di scarpe, su un vestito nuovo, i capelli, il trucco, un dolce fatto, uno spaghetto che viene meglio, qualsiasi cosa. Cioè, ci sono un sacco di modi di entrare in competizione, si fa inevitabilmente, e questo porta inevitabilmente alla fine poi di un'amicizia. 800240024. Ecco, la chiave è questa. Perché Letizia non frequenta donne singole, donne che sono sul suo stesso piano? Perché? Perché ha già avuto una bruciante esperienza nel passato di donne rapaci, di donne che si insinuano nel tepore della tua serenità affettiva, e rapaci ti portano via quello che tu consideri il tuo esclusivo dominio. Già altre donne al tempo che lei era sposata hanno finto di esserle amiche, ma soltanto perché miravano al possesso, o alla rapina sensuale, carnale, fisica, forse anche affettiva, amorosa o relazionale di suo marito. Lei stessa si sente a volte, frequentando altre donne, e capisce come il rapporto può essere ambivalente da questo punto di vista, si sente oggetto di attenzioni non propriamente amicali da parte dei mariti di altre donne. E dice un principio fondamentale che forse gli uomini non colgono bene fino in fondo quando frequentano altre donne, quando frequentano insieme con varie femmine, nei luoghi di lavoro, ma anche negli ambiti familiari, amicali, nelle persone in cui si esce. Tra le donne è sempre vivo un principio forte di competizione. Le donne sanno che in realtà esiste una sorta di atavico, primordiale senso di sopraffazione delle altre donne, perché una deve rimanere, perché una deve essere la prescelta. E quindi anche le donne più culturalmente avanzate, più socialmente consapevoli, più interiormente realizzate, sanno perfettamente che in realtà anche fra amiche, fra le amiche di cui il rapporto sembra più indissolubile, esiste sempre questo guardarsi, anzi guatarsi, usando proprio un termine proprio delle belve. Si guardano, si studiano, capiscono quali possono essere le armi dell'avversaria, perché qualunque donna è avversaria all'altra donna. Ora, io dico questo, una mia personalissima e sicuramente immaginifica e quindi erronea lettura di quello che ha detto Letizia. Mi sono sbagliato. Nessun uomo può essere sapiente interprete del mondo delle donne. Il mondo delle donne è un mondo meravigliosamente ermetico da interpretare, è un mondo ambiguo, è un mondo di cui l'apparenza non rivela mai qual è l'intima sostanza, e di cui noi non vogliamo mai sapere qual è l'intima sostanza, perché il momento che lo sappiamo questo mondo perde di fascino. Quindi questa mattina l'invito a tutte le ascoltatrici in ascolto: dateci dei segnali, ma non decisivi, non inequivocabili, di interpretazione del mondo femminile, così almeno come lo vede Letizia. Ritengo che l'amicizia fra donne, quella vera, non esista affatto. C'è sempre un tornaconto in un'amicizia fra donne che dura. E comunque ci sono delle regole non dette, non decise, però ci sono. Se un'amicizia fra donne dura, resiste, perché c'è qualcosa che si condivide, qualcosa che magari altri non possono sapere, qualcosa che le accomuna e che le fa stare insieme quasi per forza, perché la donna è competitiva, è maligna, è cattiva, giudica, e prima o poi una fregatura, una cattiveria te la fa sempre. Oddio, questo contraddice quello che mi sono sempre sentito dire negli ultimi decenni sulla sorellanza femminile. Ah, se le donne potessero stare tutte al posto degli uomini. Ah, se invece che un uomo la decisione la prendesse una donna. Una donna naturale è propensione all'armonia, alla fratellanza, al volersi bene, alla composizione dolce di ogni questione. E qui è via con tutte le quote rosa, con tutte le rimostranze nei confronti del mondo maschile, che veramente, realmente, concretamente, lo dico con grande sincerità, è così chiuso, così inaccessibile alle donne, che se ci potessero mettere mano in realtà loro farebbero vedere agli uomini come si può facilmente convivere tra esseri umani senza quella competizione tipica degli uomini, con l'aggressività così ottusa che hanno gli uomini. Eppure la nostra ascoltatrice Letizia ci dice esattamente un'altra cosa. Tra donne è impossibile essere amiche, perché le donne sono cattive, perché le donne tra di loro si odiano, perché le donne tendono ad annientarsi. 800 24 00 24. È vero quello che dice Letizia, è vero che tra donne accade esattamente quello che accade tra gli uomini, cioè desideriamo ognuno l'annientamento degli altri per restare gli unici vincitori, gli unici sopraffattori, gli unici a poter disporre poi delle delizie e dei favori del resto dell'umanità che tanto ci attrae. Un consiglio che darei a tutte le donne: non bisogna assolutamente confidarsi. Nel momento esatto in cui ci si confida, siamo vulnerabili. Mai confidarsi appieno. La donna a cui confidi delle cose importanti inevitabilmente diventa troppo forte, più forte, ed è pericolosa. Ho un'amica, con lei condivido i sogni. Ecco, io e lei si parla dei sogni e ci si estranea, cioè si scappa via dalla realtà sognando, parlando delle cose. Questa è la mia migliore amica, ma se dovessimo anche con lei parlare di realtà vera, di problemi o di cose, non credo che lei sarebbe capace. Devo innanzitutto chiarire un piccolo equivoco che è sorto nel nostro pubblico. Sono in diretta e non è che sono registrato, non è che me la sono data oggi perché iniziano le vacanze di Pasqua. Sto proprio qui, posso dire che sono le 10:18 minuti, quindi chiamata all'800 24 00 24, perché stanno chiamando signore dicendo: ma siete registrati, che chiamiamo a fare? No, siamo in diretta, anzi mi sto arrampicando un po' sugli specchi, se mi date una mano mi fate una cortesia, perché non è che ne sappia poi tanto delle donne, quello che so non sempre può essere raccontato alla radio. Però rimango abbastanza perplesso da quello che sento dire da Letizia. Non bisogna confidarsi con altre donne, attenzione, se diamo un nostro segreto a un'altra donna diventa un'arma terribile nelle sue mani per annientarci. Abbiamo necessariamente dei rapporti superficiali, perché confidarsi con un'altra donna potrebbe essere corrispondere a dare nelle mani un'altra donna un'arma terribile, ma io onestamente non ho mai avuto una visione idilliaca dei rapporti tra donne, ma immaginavo, vedendo la difficoltà che abbiamo noi maschi al di là delle riunioni da spogliatoio di calcetto o delle finte rimpatriate tra compagni di scuola o delle subdole e banalissime trasferte fra colleghi, non abbiamo grandi occasioni poi per misurarci in questa maniera. Gli uomini fra loro si confidano poco, parlano poco tra loro, se parlano parlano in maniera molto superficiale o fanno i piagnoni quando gli capita qualche grossa disgrazia, allora improvvisamente uno va a cercare gli amici. Ma immaginavo che tra le donne, ma questo è probabilmente una mia lettura superficiale, esistesse un rapporto continuo di confidenza molto più stretto, molto più intimo, molto meno superficiale rispetto a quelli degli uomini. Ma invece mi rendo conto che tra donne, se è vero quello che dice Letizia, esiste un continuo senso di circospezione, di attenzione e di sospetto nei confronti di altre donne. Daniela, lei che ne dice? Dottor Nicoletti. Sì, ma non dica con questa voce, che già è una giornata un po' nuvolosa. Certo, è nuvolosa per la mia vita, però sento vicina la signora che ha chiamato un minuto fa, due minuti fa. Ah, quindi ha ragione Letizia? Sì. Le donne sono iene fra donne? Certo, penso proprio di sì. Beh, integri allora la storia di Letizia. Non per loro indole. Ma anche io sono così, io non mi sento di vivere, io sono separata dopo 30 anni di una vita vissuta proprio in funzione della famiglia, cioè una cosa che non ho accettato mai e non accetterò mai, e non accetterò mai di uscire, di andare in una discoteca, di andare... Cioè lei ha deciso di seppellirsi ancora viva? Questo. No. Io vivo per il mio figlio, per i miei nipoti. Vabbè, questa è una scelta mesta, vivere per gli altri non ci soddisfa, non esiste. Quando diciamo noi viviamo per gli altri, abbiamo già, come se fossimo tagliati qualcosa di noi stessi, l'abbiamo messo in frigorifero. Oltre che vivere per gli altri può essere utile, ci sarà anche una necessità di vivere per se stessi, minimamente, immagino. No? Io spero che lei mi dica una cosa che fa scattare il mio cervello. Quello che non mi hanno insegnato neanche preti, psicologi. E beh, se lei si affida ai preti e agli psicologi, onestamente non le possono dare delle scelte di felicità. No, dicono sempre che bisogna soffrire, oppure bisogna parlare lungamente con loro, nel caso degli psicologi, il più possibile, per più tempo possibile. Io mi libererei un pochino da questi supporti. ufficialmente e naturalmente intoccabili per chi a loro vuol dare fiducia, ma la sento talmente afflitta e talmente sull'orlo del pianto che secondo me vada da qualche oste, vada da qualche signora un pochino più allegra, probabilmente la tira un po' su, no? Io vorrei che lei, penso che io l'ascolto da tanto. Allora se mi ascolta mi conosce, sa? Certo che la conosco, e vorrei solo dirle che non sono una persona che può liberarsi dalla sua vita, dal suo essere, frequentando posti che non le sono congeniali. Cioè, ma cos'è che le è congeniale? Mi dica una tipologia umana che le è congeniale. Congeniale a frequentare una famiglia, congeniale andare a teatro con un'amica o un amico, o il marito cioè frequentare comunque le famiglie, non... Ma lei, qual è il suo ruolo frequentando famiglie altrui? Una sorta di accompagnatrice delle famiglie degli altri? Uno poi deve avere, quando esce con altre persone, un suo ruolo deve esserci più o meno? Mi sento in una famiglia. Ah, lei ha bisogno di una famiglia, quindi si attacca alle famiglie altrui per respirare quell'aria felice di idillio familiare? Ma lo sa che le famiglie non è che sono fatte soltanto di idillio e di felicità. L'unione della famiglia è costruita ogni giorno attraverso indicibili acrobazie ed equilibrismi, fatti di odi, di rancori, di rabbie, di repressioni, di fughe domestiche, tutta una serie di cose che permettono che le famiglie stiano assieme. Lei si prende solo il momento felice del mulino bianco che va a teatro. No, non è così. È più alto il mio pensiero, anche se... No, non voglio... Sono una piccola donna, diciamo così, però è più alto il mio pensiero, non è quello del mulino bianco, che considero l'uomo e la donna meglio di quello che viene prospettato. Sì, cioè, però adesso le auguro un'ottima Pasqua, le auguro di essere un pochino più allegra, perché la sento veramente un po' mesta, però sono meglio di quello che viene pensato. Per capire meglio vanno frequentati, bisogna sporcarsi le manine, le ditine, la faccina, i pensierini, frequentando altre persone, rischiando anche di avere grosse delusioni. Non è che la prima delusione che uno ha si mette in un angolino e mostra la sua afflizione al mondo, e se no lei rimarrà... Io poi non voglio essere né prete né psicologo né consigliere, i miei consigli sono consigli alla dissoluzione, quindi non li seguo assolutamente. Però io, se potessi dire qualcosa, sia un pochino più dissoluta, se può. Probabilmente questo le potrebbe dare gioie che non le dà questo suo contemplare la sua solitudine e la felicità altrui. Buona giornata, Renata. Renata. Oh, finalmente. Mi tiri un po' su, Renata, mi sono lievemente depresso. No, io lo tiro su perché racconto un fatto realmente accaduto, ma è veramente singolare. E anni fa, quando ancora io lavoravo al comune, quando ancora i cellulari erano i primi, no? Uh-huh. E ho invitato a cena degli amici, fra cui una mia collega carissima, intimissima, stavamo nella stessa stanza e ci dicevamo le cose più segrete, e col marito, e abbiamo fatto questa cena, ci hanno fatto vedere questo cellulare. Allora il cellulare, eravamo con altri amici, fammi un po' vedere come funzionano quelli grossi ancora, così. Dico, chiamami al mio telefono. Allora mi chiama, che stava poi nella stessa stanza, sento squillare, insomma la cosa così carina, simpatica, arrivederci, ciao. A un certo punto, quando sono andati via, io sento squillare il telefono mio. Era il marito? No. Ho sentito squillare il mio telefono e rispondo. E sento, nella confusione del motore così, mai visto che casa... Ma ci stava, ma quella cucina nel salone, ma che c'entra? Ma poi lei, ma lui, ma vedi che lui, che mio marito è un angelo, guardi, lui che sguardo cattivo, praticamente, io dicevo, oh, ma che dite, sto qua, senti, ciao, ci sono ancora invitati. Dice, ma quella che, avevo anche una cosa, che stava alla camera, dice, quella alla camera, ma quella sta alla camera da letto, una deputata, no? Insomma, io, una mia amica... Ma lei ci è rimasta male per questo? Io terribilmente male. Guardi, adesso le dico una cosa. Ha capito che su, Sì, sì, no, le faccio una confessione. Guardi, questo è successo in un momento arcaico, i primi cellulari, non capendo bene come ancora funzionava quella sorta di borsello che si portano dietro, hanno erroneamente ripigiato il tasto chiamata e lei ha assistito, come se fosse una microspia, alla normale conversazione di due persone, dopo sono state a cena da amici, che parlano male degli amici, ma accade sempre. A me è accaduto poco tempo fa con il mio nuovissimo auricolare Bluetooth, che è uno strumento meraviglioso, che però ha questo difetto che se uno per sbaglio lo sfiora richiama l'ultima telefonata, e ho avuto, ahimè, la mestizia, ma la grande tenerezza di sentire un'amica mia che stava andando, non so, a farsi quale esame intimo in un ambulatorio. E mi dicevo, ma guarda, ti sento, e continuava a dire, allora facciamo questa... Ecco, io mi sono molto divertito, ma... L'unica. No, succede sempre. Ma questo cos'è? Le ha dato una chiave di lettura diversa? Tutti, no, dice, parliamo male dei nostri amici. Io sono rimasta molto male, poi ovviamente l'indomani, io sono un po' cattivella pure, io l'indomani saremmo uno di fronte all'altro nella scrivania. Ah, siete stati bene? Dico, ieri sera a cena. Dice, sì, molto bene. Vabbè, questo l'ha dato un elemento per capire in realtà. Mamma mia, è stata una cosa terribile, l'assicuro. Sono stata male una settimana. Va bene, la voglio consolare, guardi, a giudizio insindacabile del professor Chiappini e di Fabrizio Intonti ha vinto il primo libro infame. Ma va! Sì, è contenta? Adesso le facciamo la pubblica assegnazione. È pronta? Prontissima. Se lo merita veramente. Il vincitore! Ho vinto qualche cosa? Allora, Renata, per il suo contributo illuminante nel rapporto sintomatico che esista fra colleghe d'ufficio, che nasconde molte volte dietro l'affabilità una vena di profonda perfidia, peraltro è sicuramente individuabile attraverso strumenti tecnologici, vince il libro infame La monaca insanguinata di Charles La Nodier. Monaca insanguinata. Lei se lo merita veramente. A presto. Grazie. Alba. Eccomi, buongiorno. Ecco, ritorniamo però al punto, sennò ci stiamo confondendo tra alti e bassi. Letizia dice, la nostra ascoltatrice, che in realtà è impossibile un rapporto sincero tra donne. Lei, donna separata, fugge da tutte le donne separate come lei, accetta però con grande circospezione frequentare donne sposate con famiglia, perché sono quelle che le sembrano più tranquille, perché è spaventata da questa doppiezza di natura femminile che tende ad uccidere, ad eliminare ogni altra donna attorno a sé. È d'accordo? Parzialmente sono d'accordo, e sono d'accordo soprattutto per quella categoria di donne alla quale mi sento di appartenere, abituate ad essere da un lato prime della classe fin tanto che hanno frequentato le scuole e dall'altro lato ad essere factotum in famiglia, lavoro, eccetera. Le orribili efficientiste. Sì, esattamente, alle quali siamo comunque costrette, al ruolo al quale siamo costrette. Ma l'efficientista comunque, sempre e normalmente... Mi conceda il termine, visto che è stato sdoganato la nostra trasmissione, è anche figa di legno, quindi evidentemente da una parte si eccede, da una parte si cede. Esatto. Da concorda su questo ulteriore lettura? Sì, guardi, allora sì, se intendiamo la stessa cosa per figa di legno, vale a dire, da un lato ovviamente bisogna sempre, siamo fatti di un equilibrio abbastanza armonico, nonostante spesso... No, l'efficientista esaspera la sua figa di legnaggio, nel senso di... Anche dal punto di vista dell'attrattiva o della relazione, deve sempre avere intorno un grande consenso. E quindi fa di tutto per avere questo consenso, ma essendo efficientista non può perdere tempo, non può perdere risorse, non può penalizzarsi poi nel consumare, nel frequentare, nel mettersi in gioco in questo consenso acquisito. Quindi saltella, lascia un alone profumato, ma non arriva mai a dispensare felicità agli altri. Ma guardi, su questo non sono tanto d'accordo. Siamo qui per discutere. Sì, infatti, perché personalmente, ritenendo di appartenere... Ah no, aspetti, ferma Alba, mi stanno facendo un segno per cui bisogna dare le informazioni della borsa. Resti in linea, perché rifletta intanto su questo rapporto efficientista-figa di legno, tra qualche istante poi possiamo naturalmente continuare il nostro discorso. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Rende difficile il rapporto per me con altre donne è il fatto che sono indipendente in tutti i sensi, economicamente perché il lavoro è un buon lavoro, indipendente perché non ho bisogno di un uomo per aggiustare l'aspirapolvere, indipendente perché parto, me ne vado sempre con i miei figli, anche quando erano piccoli, partivo, li prendevo, partivo, andavo ovunque, E questo è sempre stato un motivo di invidia da parte delle mie amiche, che o separate o non separate comunque non avevano il coraggio di farlo. Poche donne hanno il coraggio di fare quello che ho fatto. La maggior parte delle donne non hanno il coraggio di fare tante cose. Io invece ce l'ho avuto. 800240024, stiamo parlando di rapporti tra donne. Naturalmente noi uomini guardiamo con grande curiosità, con grande divertimento, con grande interesse, non possiamo dire nulla, un uomo non può dire nulla di quello che accade tra donne, che ne sa un uomo di quello che accade tra donne? Può curiosare, può illudersi che magari nel quadro complessivo, cercando di sollecitare, stuzzicare, sedurre, turlupinare, possa venire qualcosa che assomiglia a un quadro lievemente plausibile, ma so e ho la certezza che mai riuscirò a capire qualcosa di quello sarà il vero rapporto che lega le donne. Mi sono interrotto con Alba dalle informazioni non della borsa, essendo giorno oggi prefestivo, ma soltanto dalla pubblicità. Alba, ci eravamo interrotti con lei. Ci eravamo interrotti. Ecco, riprendiamo il punto. Lei allora ha analizzato un tipo femminile a lei molto inviso, che è la donna efficientista, quella che è abituata a essere... No, non è inviso. Io ritengo di appartenere alla categoria. Ah, ecco perché... Ah, lei è un efficientista, terribile efficientista. Io sono una terribile efficientista. Noiosa, fastidiosa, tediosa, no, prevedibile efficientista. Sono una prevedibile efficientista perché comunque c'è una struttura che si fonda sulla mia efficienza. Guai io non fossi efficientista, crollerebbe tutta la costruzione. Ma noi che ci stiamo a fare se lei è efficiente, scusi? In effetti, no, date il vostro contributo assolutamente fondamentale, anche perché l'uomo... Ma noi amiamo donne spaesate da condurre per la mano. Sì, lo so, ma infatti... In realtà non è così, in realtà non vogliamo palle al piede. Esatto, anche perché io credo che in questo momento forse avete più bisogno di un punto di riferimento. No, io non ho bisogno di niente, guardi, ho bisogno di... quando voglia di stare tranquillo, sereno e felice, per persone che mi aiutino a farlo. Basta questo. Sì, guardi, io le volevo dire questo, lei mi ha chiesto di riflettere sulla relazione tra efficientismo e figa di legno. Allora, io credo che appartenga più a uno stereotipo che ci siamo costruiti, quello che ci ha fornito anche una certa filmografia, quale, che ne so, quella di 20 anni fa, credo circa, una donna in carriera, quella con Sigourney Weaver. Io oggi c'è un altro bisogno, credo sia il bisogno di tenerezza. La donna efficientista, quella che deve essere comunque presente su tutti i fronti e soprattutto sempre presente a se stessa, ha a un certo punto un grande bisogno di lasciarsi andare. E questo, diciamo, nel momento questo in cui... ci fa piacere, ma parliamo di rapporti fra donne. A me piacerebbe seguirla in questo tracciato, mi stimolerebbe molto di più, ma devo tenermi rigidamente al tema che mi sono prefisso. Quindi, rapporti fra... la donna ha bisogno di tenerezza, e vabbè, questo lo so, ci fa piacere, fa parte dei nostri passatempi preferiti, promettere tenerezza a donne efficientiste, ma nel rapporto fra donne significa che la donna che cerca tenerezza è già scoperta rispetto alle sue colleghe, in realtà molto più dure, spietate, impenetrabili? Ma sì, guardi, no, non è più scoperta e soprattutto, a mio avviso, una donna più completa, quella che lo dichiara apertamente. Ma cioè la paura di essere vulnerabile, la nostra ascoltatrice dice, temo di essere vulnerabile. No, assolutamente, la consapevolezza del proprio mondo emotivo è una grande forza, cioè sapere come funziona il proprio meccanismo non è assolutamente una fragilità, è semmai un punto di forza, la conoscenza delle proprie fragilità ci aiuta ad affrontarle. Sì, no? Conoscerle sì, ma comunicarle all'amica del cuore, alla collega, alla confidente... No, è ancora meglio, è ancora di più. Quindi lei contraddice quello che dice Letizia. Assolutamente, è un punto di forza perché prima che la amica... barra competitor ti metta nell'angolo dicendo tu hai questa fragilità, ti ho scoperto, tu la dichiari apertamente perché per te non è un problema, quindi le spunti io sono d'accordo anch'io, nella spudoratezza è la più grossa corazza nei confronti delle proprie debolezze, se uno spudoratamente le esaspera e le mette in vista è abbastanza preservato dal fatto che le altre le scoprono e possono usarle, però ancora esiste questa grande paura di sentirsi fragile, di essere attaccate, trovarsi senza appigli, di aprirsi troppo verso gli altri, e le amiche in questo molte volte non aiutano. Renata. Salve, volevo congratularmi con lei per il programma, lo ascolto ogni mattina. Sì, ma vada al punto. Vado al punto. Allora, sto ascoltando questa trasmissione di oggi e sono con capelli dritti sulla testa. Perché è un'immagine spaventosa delle donne, quella che viene data. La rettifichi secondo la sua esperienza più felice? Sì, certo che la rettifico. È una cosa naturale che le persone fanno amicizia, non si vedono, poi si rivedono. E poi credo che l'amicizia che abbiamo sono quelle che ce le meritiamo. Perciò se le persone vivono con le donne che le fregano, significa che anche loro hanno un modello di pensamento uguale a quelle donne che le fregano. Lei è polacca, leggo dalla storia. Io sono polacca, sì. E, sentendo anche queste donne italiane intorno a 50-40 anni, sono un po' stupita, perché visto tutto il percorso che hanno avuto il femminismo in Italia. Ma guardi, non nomini questa parola pericolosissima, che oggi le donne sbattono la testa sul muro per essersi appellate a questo termine come termine che l'avrebbe liberata, l'ha imprigionata ancora di più, vede? Da noi ancora non viene visto così terribilmente, ecco, viene visto un po' come in effetti un stare insieme, un fare le cose insieme e non diventare uomini e non diventare efficientissimi fighe di legno, ecco. Sta torturando un gatto? Sì, ce l'ho un gatto infatti, insieme a me è molto, molto, molto contrariato. Ma io ce l'ho anche amiche italiane che sono persone... E non vedono lei adesso, conclamo un luogo comune terribile, lei donna dell'est, vista dalle donne italiane come esempio di lussuriosa tentatrice ai propri focolari domestici, non è mai stata vista come, ahimè, quella da tenere lontano, pericolosa, che da guardare con sospetto perché liberata, perché sessualmente avvantaggiata, perché con una mentalità molto più laica, che non va da preti e psicanalisti come la signora prima, che infatti è molto mesta. Ma per fortuna non tutte le donne italiane sono come la signora che ha chiamato con le problematiche di essere autosufficiente e pensare che tutti sono gelosi della sua autosufficienza, perché si può essere anche nei rapporti con le persone molto stretti e essere autosufficienti. Ma un'altra cosa, è molto presuntuoso pensare che ci sia autosufficienti, non siamo guardi, mai... Io mi interrompo soltanto per un motivo, signora, perché temo che gli animalisti associati e le gattare terrificamente, spaventosamente reattive mi considerino responsabile le torture al suo gatto. Sento, lo porti a fare una passeggiatina, lo metta nella sua lettiera, forse ha bisogno. Grazie, Rossella. Buongiorno Nicoletti, ecco. Senta, io non sopporto le donne lamentose, in generale le persone lamentose. Beh, penso che nessuno le sopporti, onestamente. In particolare le donne che si lamentano delle altre donne. Io sono una persona single, divorziata, devo dire che ho subito una sorta di apartheid agli inizi del mio divorzio dalle altre donne sposate, ma me ne sono fregata più di tanto. Cioè la isolavano per paura che lei portasse potesse essere il seme del dissenso. Sì, perché la donna separata sembra che improvvisamente venga presa da una sorta di ninfomania tardiva. Cioè non capisco, esatto, se una donna separata non è frequentabile. Esatto. Non è così. Cosa che invece non si capisce, che nei primi periodi delle separazioni o dei divorzi si attraversa magari un periodo completamente opposto. Che uno tutto pensa meno che a quello. Meno che a quello. A cui pensa, infatti, molto una donna sposata a tanti anni felicemente accanto al suo marito. Per cui magari tante volte lo tradisce col pensiero e qualche volta anche con i fatti. Vabbè, lo spero bene. Le mie, eh? No, lo spero bene, almeno sarà contenta lei e chi per lei. Invece, sì, capita che qualche amica parli male di noi, capita che lo faccia anche qualche amico uomo. E a questo punto si può scegliere fra finta che non esista oppure vendicarsi malignamente, spettacolando di loro, però mi fanno molto, in un qualche senso, molta tenerezza e anche molta pena questo tipo di donne. Va bene, il suo atteggiamento mi sembra più disincantato e consapevole. Paola invece, sentiamo. Buongiorno Gianluca. Cosa posso dire io? Sostanzialmente penso che tra donne c'è una grande falsità. Chiaramente il discorso va allargato, perché poi ci sono le persone dietro le donne, gli individui e le individue singole, però c'è una falsità estrema, perché se parliamo tra di noi siamo bravi, efficienti, intelligenti, superwoman, acculturate, mamme, mogli, amanti e quant'altro. Dopodiché senti gli uomini e gli uomini dicono: Paola, ultimamente becco come un disperato, me la danno tutte, dai 30 in su me la danno tutte. Ora, io capisco che non è una bella cosa dire io sono, virgolette, scusate il francesismo, zoccola, è giusto? No, perché però non c'è niente, io non ci trovo questo... nulla di disdicevole, onestamente. Sì, sì, però buongiorno, io sono una zoccola, se me la dà o no, me la dà sì o no, non credo che sia una cosa carina. Ma uno cerca sempre. Può rompere la monotonia di una giornata grigia, sentirselo dire. Assolutamente sì, però diciamo che poi nel dettaglio una cerca in qualche modo di immolarsi ad agnello sacrificale. No, purtroppo sa qual è il vero problema, poi, io dico sinceramente... Che così, in maniera così aggressiva fa questa dichiarazione di intenti, poi non mantiene mai la promessa, non mantiene mai la promessa. In realtà, per mantenere il francesismo, le vere favolose e di cui si hanno nostalgia zoccole sono quelle che non lo dicono mai, che tengono gli occhi bassi e non ammetterebbero mai l'intima d'azione per solo piacere. Però, sa, sono meccanismi molto arcaici questi. Però, ripeto, quello che io riscontro e lavoro in un mondo sostanzialmente di uomini di ogni età è quello che purtroppo mi porta a ritornare al discorso che facevo prima, che c'è un lassismo a livello fisico abbastanza disinvolto. Ma ripeto, tra donne non lo si dice, io mi prenderei questo in questo momento e poi quest'altro ancora e poi quest'altro eccetera eccetera. Questo è la relazione tra Cioè, fra voi fate le monachelle... occhi bassi, dice, fa voi nel suo ambiente, perché non mi risulta in altri ambienti che sia così, però in realtà ci si spartisce la mandra dei maschi in maniera molto disinvolta. E le dirò di più, l'altro giorno, e poi concludo velocemente, sì. Dica l'episodio. L'episodio velocissimo, 4 sms di 4 signorine diverse sul portatile del collega, una la invitava a cena, e non è questo Adone nel senso mi spoglio, ti voglio, sei mio, una persona normalissima, molto simpatica. Dicevo, una a cena, una a un cinema e altre due insomma che gli proponevano, era martedì, una serata diversa, quindi non è che questo se lo sogna e ha... non so, il delirio di onnipotenza per poter gestire... E ma lei cos'è, gelosa? Potrebbe mandare il quinto sms? Ma no, ma perché deve dirmi una cosa del genere? No. Non sono gelosa, io posso disporre del mio corpo come voglio. Ma a me mette voglio. Molta allegria che esista questa volontà di giocare con la relazione, sinceramente. Ma allora, io rispondevo alla sua domanda, le relazioni tra donne non ci si dicono Cose. Vabbè, sa com'è, non è così facile ammetterlo. Perché mi deve dare della gelosa? Assolutamente no. No, non si offende. Deve essere libero. S'offende dimostra che è vero, però non ho capito. Se lei s'offende, si arrabbia, dimostra no, che ci ho preso. Figuri, non mi ha mica detto zoccolo. Su zoccolo mi offenderà, invece questo mi fa anche no, se l'ha detto riflettere. Da sola. Vabbè, signora, abbiamo capito, è molto chiaro il suo punto di vista, è una cosa che farà parte del mio bagaglio di conoscenza del mondo femminile, sapere che le donne fra di loro non si dicono mai quando hanno l'intraprendenza nei confronti del maschio. A tra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Lo dico per esperienza diretta, lo dico per esperienza vissuta con mia figlia, questo è appurato. Il rapporto fra madre e figlia è sempre difficilissimo, perché probabilmente nell'indole della donna è più forte della donna fare dei paragoni con quella che si ritrova davanti o volersi dimostrare meglio in tutto. Una comunicazione di servizio, un attimo, abbiamo ripreso al volo Paola, con cui mi ero salutato alla fine della seconda parte, che dobbiamo fare a lei una comunicazione. Il vincitore è... Ho vinto qualche cosa? Paola, per la sua disincantata dichiarazione di aver sconfessato l'ipocrisia delle sue colleghe, che la darebbero a chiunque, ma in realtà a lei non lo... comunicano nemmeno per iscritto, regaliamo il libro infame Insieme a tre non ci sto più di Guia Bambi. È contenta Paola? Fantastico, mi immergerò in questa lettura e poi saprò, magari se vi interessa, darvi un feedback sicuramente. Beh, il sottotitolo è Scandalo a luci rosse, tradimenti nella galassia VIP. Ho fatto anche una dedica a Paola, che non è gelosa e tantomeno zoccola, va bene? Grandissimo. Va bene, grazie Paola, passiamo a Dania. Ciao, buongiorno. Eccomi Dania. Io volevo solo dire che a me dispiace per Letizia, lei deve aver avuto solo... Letizia chi è? La signora che piagnucolava prima? No, Letizia. Ah, Letizia, quella, la signora che... Sì, lo so, è una triste storia la sua. Secondo me lei deve aver avuto solo, e sottolineo solo, esperienze frustrananti nei confronti delle donne. Perché io per pensarla così, sì, perché io sono separata, cioè mi sto separando, e tutte le difficoltà organizzative che ci sono dietro ad una separazione, io posso dire che ho un aiuto incondizionato, incondizionato veramente, solo da amiche, mentre aiuti maschili secondo me presupponevano forse un oltre. Guardi, io non voglio giustificare il genere maschile, ma essere molto vicino alla donna che sta per separarsi è molto rischioso. È molto rischioso, perché uno rischia che poi dopo se la trova emotivamente molto vicina, e non è detto che tutti vogliano correre questo rischio. Quindi in parte assolvo gli uomini, ma sono felice che lei in questa fase di difficoltà si senta... Aiuti maschili secondo me presuppongono un oltre. Vede, per questo in questo momento è meglio starsene un pochino defilati. Poi verrà il momento che troverà molti aiuti maschili. In questo momento l'aiuto maschile presuppone sempre l'oltre. E l'oltre spesso spaventa, soprattutto in questa stagione, che uno vorrebbe degli oltre molto limitati. Grazie, Claudia. Claudia. Ciao, ecco. Buongiorno, ciao. Sì. Dunque... Lei sta per dire, guardi, perché leggo la scheda, una di quelle banalità che fanno rabbrividire, però la dica, così almeno ci mancava. No, ma io, la mia esperienza è stata questa. Sì. Il fatto di, è vero, anch'io ho trovato anche delle difficoltà a gestire i rapporti di amicizia con le donne. La mia vera amica è mia sorella, e anche se mi rendo conto che non in tutte le famiglie esiste questa sostanza tra sorelle di sangue. Certo. E invece il rapporto che ho trovato più gratificante è stato quello con gli amici gay, perché vedo, è come se fossero l'esasperazione della femminilità così nuda da essere più facilmente relazionabile. Sì, sì, ma è normale. A Roma esiste un termine bruttissimo per definire questa abitudine di frequentazione da parte di donne sole con gay. Non lo ripeto, però... Io però non sono sola, sono sposata, ho amiche, ma con gli amici gay è come se riuscissi a con una relazione con loro, che sono la forma più esasperata della donna. Sì, però scusi, le posso dire che è molto facile, perché innanzitutto non sono uomini che la mettono in difficoltà, perché non deve gestire un rapporto di o aggressività o di gestione dell'attrazione. Non sono nemmeno donne, quindi non deve nemmeno gestire la rivalità. Quindi in realtà sono le creature ideali per poter sentirsi gratificata senza sentirsi in impegno. Esatto, perfetto. Sì, sì. Però sono un surrogato di entrambe le figure, dell'amica e dell'uomo che le sta accanto, questo se ne rende conto, con tutto il rispetto per le loro scelte. Ma intanto che bisogna fare? Ah, beh, le certo. Amiche poi diventano delle stronze. Gli uomini poi ti saltano addosso. O ti saltano addosso o ti cagano di striscio, e allora c'è questa alternativa simpatica. Sì, l'ha detto lei, un'alternativa simpatica, io non la metto in crisi, però non risolve il problema, uno mica non risolve. Ma non credo si possa risolvere, così come non si risolve... Non lo affronta, ecco. La storia del tradimento, così come non si risolve... Le donne sono così, anzi, uno prima impara a relazionarsi a questa cosa e meglio ci vive. Per fortuna ci sono anche gli amici gay. Senta... Siccome mi fa veramente molta tenerezza questa sua dichiarazione d'orgoglio, in cui sento anche, non se la prendano, poi io mi sono stancato, bisogna sempre essere l'attenzione del politicamente corretto. Mi rendo conto, una donna che dice preferisco gli amici gay perché sono delusa dagli uomini e dalle donne, è una scelta comunque di rimessa, perché l'amico gay può essere amico quanto vuoi, ma non riuscirà a avere mai con lui l'attenzione di un rapporto esasperato, si può avere con un uomo, ma nemmeno ha risolto il problema della difficoltà di relazione con una donna che si sente come rivale, quindi sentirà sempre minacciata dalle donne, sentirà sempre messa a repentaglio nel rapporto con gli uomini. Quindi lei in questo momento merita da me qualcosa che la tiri su. Il vincitore! Ho vinto qualche cosa? Guardi, Claudia, per le sue seratine elettrizzanti, lei merita il libro infame di Ciro Vestita, Mangia meglio e spendi meno, consigli e ricetti Salva Euro per una spesa più sana. Così farà delle belle cenettine con i suoi amici, cucinerete tutti assieme, vi farete le frittatine, vi farete tutte le belle cosine e sarete tutti contenti e felici. La congedo e la saluto. Patrizia. Sì, buongiorno. Mi dispiace, lei non può vincere niente, i libri infami sono finiti. Va bene uguale. L'importante è partecipare. Sì, l'importante è partecipare, anche la mia prima volta. Stavo tornando a casa e ascoltavo la radio e mi sono divertita e ho detto voglio provare, perché è la prima volta effettivamente che sento parlare della competizione o del fatto che le donne sono vipere fra di loro. Ed è, cioè, secondo me... È liberatorio sentirlo. Sì, è la verità, cioè è una cosa che si deve mettere in conto. Non so se è atavica, cioè se questa cosa qui deriva da lontano. Comunque è una cosa che mia madre mi diceva sempre, ma a cui io non volevo credere. Come è diceva cosa... sua madre, tradotto nel lessico familiare? Che bisogna essere maliziose, bisogna sempre coprirsi le spalle, bisogna sempre mettere in conto che qualcuno te la vuole tirare, cioè questo... Quando, soprattutto sul lavoro. Attenzione, rispetto alle altre donne, diceva sua madre. Rispetto alle altre donne, sì. In un ambiente dove c'era tante donne non c'era mai da sfidarsi, mai. Ma io fino a 20 anni... Ma soprattutto donne single, cioè donne non accasate, no, diceva sua madre. Senza distinzione, veramente. Tutto. Quindi ritorniamo nella tesi della seconda vincitrice, che diceva che le sue colleghe d'ufficio fanno tanto le suorine, però in realtà... Sì, si buttano a pesce sull'ultimo scampolo di attrezzo maschile che rimanga nel loro ufficio. Sì. Ma forse nemmeno per questo, cioè è proprio una cosa che il voler essere meglio, cioè quando una donna dice che no, è nel mondo del lavoro deve fare meglio degli uomini, ma in realtà sì, può essere anche questo, ma in realtà è che vuole fare meglio in assoluto, soprattutto sulle donne. Beh, guardi, io concludo adesso questa missione. Questo gioco viperesco fra donne in realtà è il meraviglioso divertimento noi uomini che stiamo a guardare, pronti a raccogliere gli scampoli di ciò che rimane di questo massacro, perché sappiamo che sarà indebolito e sarà pronto e disponibile per le nostre rapaci mani. Vi saluto. Ah, è Pasqua, buona Pasqua, ci sentiamo dopo Pasqua. Ottimo argomento. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.